Una buona serata, il consueto ben ritrovati insieme nell'appuntamento serale dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì su Rock FM. La voce di Marco Garavelli. Il nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi al numero 1 è il nostro autore Simone. Anche per questa sera tracklist pronta. Partiamo tra parentesi con due riallacci al passato, due band che ci sono state richieste, quindi potete anche in effetti scrivere alla mia mail marco@radiorockfm.com. Potete anche riascoltare il programma tramite il nostro sito www.radiorockfm.com. Ci sarà l'opportunità di poter riascoltare, se le perdete, le intere puntate di Arden Davis sono presenti in archivio. Dicevo, iniziamo con una band che mi è stata richiesta, se non sbaglio, da un amico peruviano addirittura. Il gruppo è olandese, si chiamavano Picture, e questa band, esattamente dalla città di Hilversum, hanno proposto del buon hard rock e metal a metà periodo degli anni 80, che ha avuto un buon successo in patria e in Sud America. Il gruppo è nato nel 1979, ha effettuato il suo esordio nell'80 con l'omonimo album, che ha mostrato da subito ottime qualità della band. Segue l'anno successivo l'album Heavy Metal Ears, che gli vale un tour di supporto agli AC/DC e Saxon. In occasione del terzo album Diamond Dreamer c'è da segnalare il cambio di cantante con l'ingresso di Abigail. Questo album si rivela importante per il gruppo perché le diede una certa notorietà a livello internazionale. Vennero anche a suonare li vidi dal vivo in Emilia-Romagna a quell'epoca. Nonostante però il successo, il cantante viene nuovamente cambiato. Esce il quarto lavoro, Eternal Dark. L'ultimo album in studio è stato Marathon, uscito nel 1987 con una formazione lontana dall'originale, tanto che l'unico membro storico era il batterista Rinus. Per quanto riguarda il cantante Abigail, che ha dato la sua voce in questo album Diamond Dreamer, nel 2003 ha cantato nell'album Under a Savage Star della band dell'ex chitarrista dei Virgin Steel Jack Starr, band che si chiama Guardians of the Flames. Ed è proprio da questo terzo album, appunto intitolato Diamond Dreamer, che andiamo ad ascoltare il brano che dà il titolo al lavoro per la formazione olandese dei Picture, Diamond Dreamer. We'll be right back. annunciato Diamond Dreamer, ma purtroppo questa è la traccia prima, quella che precede Diamond Dreamer, Hot Lovin', ma comunque la formazione è sempre quella olandese dei Picture, dal loro album Diamond Dreamer, il terzo della produzione di questa formazione. Un altro gruppo che mi è stato richiesto e che andiamo a proporre proprio dal loro primo album con le note di Love Machine sono gli Wasp, creati nel 1982 da Blackie Lawless, all'epoca cantante e bassista, e dal chitarrista Randy Piper. Dopo un demo e un'intensa attività live, arrivano all'esordio nell'84 con l'omonimo album, che riscosse subito un buon successo, entrando nelle prime 50 posizioni delle classifiche americane. Nell'85 arriva The Last Command, il cui successo fu in linea con il precedente lavoro. Nonostante ciò, il chitarrista Piper abbandona il gruppo e Blackie lascia il basso a favore della chitarra e da lì in poi si occuperà sempre di voce e chitarra. Da notare che i concerti degli Wasp, soprattutto in passato, erano molto coreografici e talvolta violenti, tanto da causargli diversi problemi con le censure di tutto il mondo. Nell'86 esce il terzo album, Inside the Electric Circus, che ottiene sempre un buon successo a coronamento dell'ottimo momento che stava attraversando la band. Dopo i primi tre album viene pubblicato il loro primo live album dal titolo Live in the Raw, che vi ho già proposto nello spazio del venerdì, quello esclusivamente dedicato ai live hard rock e heavy metal. Seguono poi una serie di cambi di line-up, momenti su, momenti giù della band, che hanno caratterizzato la loro carriera sino ad oggi. Ricordiamo che da poco è stato pubblicato il loro 13° lavoro, Dominator, uscito proprio nell'aprile di quest'anno. Ebbene, come anticipato, dal loro primo lavoro, contenente tanti brani famosi, tra cui questa, Love Machine, la formazione è quella degli Wasp. Love machine, I'm Virgo, my Leo's molto famosa, molto bella, al pari di altre incluse in questo loro album d'esordio, Wasp con Love Machine su Rock FM nello spazio di Arden Davy. Ritorniamo invece alle cose più recenti, anche perché domenica 23, insieme ad altre band, ma loro sono gli headliner, suoneranno all'Alcatraz di Milano. Si chiamano Paradise Lost per supportare il loro 11° album in studio dal titolo Requiem, uscito a metà maggio. Ricordiamo che la band inglese si è formata nel 1988, l'album d'esordio dal titolo Lost Paradise del 90 era a livello musicale un gothic death metal, mentre il secondo, il famoso gothic, è considerato a tutt'oggi proprio un capolavoro del gothic metal. Un altro lavoro di successo è stato sicuramente Draconian Times, al quale segue un periodo durante il quale si discostano dal metal per poi ritornare lentamente ad un certo gothic metal con l'album che aveva come titolo il loro nome, cioè Paradise Lost, nel 2005, seguito da questo In Requiem, dal quale oggi vado a proporvi quello che è il singolo, si intitola The Enemy, per i Paradise Lost. Album, un ottimo ritorno per i Paradise Lost, che potrete vedere dal vivo al termine di questa settimana. Domenica 23 settembre saranno all'Alcatraz di Milano. Torniamo un po' al passato, alla OR, al punk rock, con questa band che ha inciso due album. Noi andremo a prendere in considerazione il primo, che porta come titolo il loro nome, cioè Trillion, una band americana composta da 5 elementi. Hanno fatto il loro esordio nel 1978 con questo omonimo album prodotto da Gary Lyons. Successivamente nel 1980 il cantante che si chiama Fred Erickson, che è praticamente stato anche cantante dei Toto nell'album Isolation, cantante degli Angel, cantante di una band di Southern Rock che si chiama Le Roi, insomma una grande carriera. Il suo posto fu preso da Tom Griffin, con i quali Trillium pubblicarono il secondo Clear Approach. In seguito la band però si scioglie. Da notare che il tastierista, ad esempio Patrick Leonard, ha lavorato per molto tempo con Madonna. Il secondo cantante, cioè appunto Tom Griffin, entra nella project band Mecca ed anche nel progetto del nostro italiano grande tastierista Daniele Liverani, nel progetto Genius. Ebbene, dal primissimo album di questa formazione, che venne pubblicato anche in Italia, ripeto, 1978, su Epic CBS, all'epoca era la CBS a distribuirlo, andiamo ad ascoltare il brano Hold Out, motivo che apriva questo loro album Trillion. Molto pomposo il loro sound, i Trillion, dal primo album 1978. Non so se è stato stampato anche in CD, penso e spero di sì. Questo era Hold Out con alla voce, lo ricordiamo, Dennis Fredriksen, che poi è entrato anche a far parte dei Toto. Andiamo a chiudere con il passato, con una band di thrash metal americani. Risalgono al 1984, si chiamano Hallows Eve. Come la maggior parte delle band di quell'epoca, partecipano alla compilation Metal Massacre, uno dei tanti volumi. Loro entrarono nel quarto. Etichetta che pubblicò il tutto era la Metal Blade. Questo gli permise di ottenere un contratto con l'etichetta stessa per l'America e Roadrunner per l'Europa. Esce così nell'85 il loro album di debutto dal titolo Tales of Terror, al quale seguono nell'86 e nell'88 altri due album. Sempre nell'88 però la band si scioglie e dopo molti anni di silenzio si è riformata 3 anni fa con un nuovo cantante e per il loro ritorno hanno suonato di supporto agli Exodus. Arriva anche un nuovo album, il quarto, dal titolo Evil Never Dies nel 2005 e ultima uscita è stato un cofanetto intitolato History of Terrors, pubblicato lo scorso anno, che riprende i primi 3 album rimasterizzati più un bonus DVD. Per quanto riguarda la lineup, attualmente è composta da 5 elementi con il cantante originale. Dal loro primo album, dalla copia europea, quella su Roadrunner, vado a proporvi le note di questo motivo che si intitola Outer Limits. Loro si chiamano Hallows Eve. Metal degli americani Hallows Eve, dal loro CD, album d'esordio più che altro, Tales of Terror. Questo era il brano dal titolo Outer Limits. Noi torneremo tra pochissimo, ancora insieme su Rock FM, per la seconda parte di Hard and Heavy con una band hard rock svedese chiamata The Pudies. Tra breve. My mind. aperto la seconda parte del nostro spazio serale di Hard and Heavy su Rock FM in compagnia di Marco Gravelli e con questa band che arriva dalla Svezia. È il loro secondo album, questo è il singolo nuovo. L'album si intitola Sweet Trade, il singolo è Seven Seas. Loro si chiamano The Poodles e uscirà questa settimana questo album che praticamente ha portato alla notorietà questo gruppo con il loro precedente album Metal Will Stand Tall. Sono arrivati ai primi posti delle classifiche svedesi, sono arrivati anche in Italia di supporter agli Hammerfall e ai Crocus lo scorso anno. La band in sede di interviste si è definita come una all-star project band, in effetti è composta da quattro elementi che hanno suonato o suonano anche in altre formazioni come il cantante Jakob Samuel e il chitarrista Pontus Norgren, che militano anche in un'altra band chiamata The Ring. E invece il bassista Pontus Egberg aveva già militato ad esempio in un'altra famosa band svedese, Lion Share. La formazione esisteva già da alcuni anni, ma è solo nel 2005 che la lineup è diventata stabile. Partecipano così alle selezioni per l'Eurovision Contest con buoni risultati, tanto da trovare quindi poi un contratto discografico, pubblicare il loro album di debutto Metal We Stand Tall, e questa settimana invece uscirà questo Sweet Trade. Ripeto, loro si chiamano The Poodles. Altra band che potrete vedere dal vivo, dato che supporterà i Paradise Lost questa domenica 23 all'Alcatraz di Milano, sono gli Eyes of Eden. È uscito il 14 settembre in Italia questo album, è l'album d'esordio. Loro sono tedeschi, gothic metal band, precisamente di Dortmund, dal cantato femminile e creato dal famoso chitarrista Valdemar Soritta, ex Grip Inc, noto soprattutto come produttore per Moonspell e Lacuna Coil. Il gruppo è composto da quattro elementi, due ragazzi e due ragazze, dove alla voce c'è Franziska Hutt, e da notare che alla batteria dell'album vi è Gus Lipstick degli Him. Curiosità riguardo la band è che in principio la cantante era Sandra Skellert, con la quale stavano già registrando l'album. A causa però di seri problemi di salute ha dovuto abbandonare. Pertanto è stata scelta Franziska, con la quale hanno riregistrato tutte le parti vocali. L'album si compone di 10 brani, ripeto, li potrete vedere dal vivo questa settimana, la domenica 23 all'Alcatraz insieme ai Paradise Lost. E ascoltiamo con quello che è il singolo, When Gods Fall, Eyes of Eden. questo nuovo gruppo tedesco chiamato Eyes of Hidden con il loro gothic metal ad un'altra band tedesca che diciamo così arriverà sul mercato, ma proprio questa è la verità, proprio questo venerdì su etichetta italiana. L'etichetta è la Frontiers Record, loro si chiamano Primal Fear, pubblicheranno il loro settimo album dal titolo New Religion. Ricordiamo che la band si forma nel 97 con il cantante Ralph Shippers, che ha già lasciato i Gamma Ray. Viene a sapere che non è stato preso nei Judas Priest in sostituzione di Rob Halford, allora contatta Matt Sinner e Tom Naumann, che sono il bassista e il chitarrista dei tedeschi Sinner. Come batterista prendono Klaus Sperling e il gruppo è formato e si chiamano Primal Fear. Registrano 4 canzoni per un demo e subito ottengono un contratto per la Nuclear Blast, che pubblica il primo album, quello d'esordio, dove è presente anche Kay Jensen dei Gamma Ray come special guest. Visto il successo del primo, viene rinnovato il contratto, sempre dalla Nuclear Blast, per altri 4 album. Album da segnalare sono l'ottimo Nuclear File, che gli è varso la partecipazione al Gods of Metal del 2001, e il sesto lavoro Seven Seal, con il quale si è esaurito il contratto con la Nuclear Blast. Sono così passati alla nostrana Frontiers Record, che questo venerdì pubblicherà questo album dal titolo New Religion. Album che gode di un'ottima produzione, infatti è stato registrato presso gli House of Music Studio, come il precedente è stato prodotto da Charlie Bauerfeind, che ha già lavorato con Saxon, Hammerfall, Blind Guardian, e sempre dallo stesso Matt Sinner. Il mixaggio invece è stato effettuato presso i famosi Galaxy Studio, a cura dell'esperto Ronald Prent, già con Iron Maiden, Manowar e Rammstein. Per quanto riguarda la line-up rispetto al precedente lavoro, c'è da segnalare il ritorno di Henry Volter, che aveva già suonato nei 2 album passati. Come special guest vi è la cantante degli Epica, Simone Simmons, e anche il chitarrista Magnus Carson dei Last Tribe. Bene, vi ho parlato della presentazione di questo album, non ci rimane che ascoltarne una traccia. La numero 2, Face the Emptiness, Primal Fear. Strong. La prima news di questa sera parla del progetto creato dai fratelli Cavalera, cioè Max e Igor. Si chiama Cavalera Conspiracy, entrambi ex Sepultura, i due musicisti brasiliani si sono ritrovati in studio ben 12 anni dopo l'abbandono di Max dai Sepultura per creare i Soulfly. Oltre a Max alla voce, chitarra, Igor alla batteria, prenderanno parte di questo progetto anche Mark Rizzo del Soulfly alla chitarra e Joe Duplanter al basso, che milita nei Goria. Le canzoni sono già state registrate con Mother Logan, ex Machine Head, che ha curato la produzione. L'album al momento non ha un titolo. Si sa che ci saranno 11 tracce, che verrà pubblicato nel febbraio del 2008 dall'etichetta Roadrunner Records. La thrash metal band americana dei Death Angel è entrata in studio per registrare il nuovo album. Registrazioni termineranno ad ottobre, mixaggio a novembre e poi nel 2008, all'inizio del 2008, pubblicazione dell'album. Queensryche, la celebre band americana, tornerà in Italia per un concerto. La data scelta è quella del 20 novembre al Live Club di Trezzo d'Adda, in provincia di Milano. Al nuovo Live Club, molto bello tra parentesi. Parliamo di Tarja Turunen, resi noti i dettagli del nuovo album solista per l'ex cantante dei Nightwish. Si intitolerà My Winter Storm, uscita 9 di novembre, 9 tracce più la cover di Poison di Alice Cooper. Gli americani Striper hanno intenzione di registrare la cover della canzone Peace of Mind dei Boston, alla quale parteciperà anche il chitarrista Tom Scholz dei Boston stessi. Andiamo a parlare invece di una band italiana che si chiamano Elven King. Il violinista di questa emergente band ha temporaneamente abbandonato il gruppo per motivi di lavoro. Questo accade in contemporanea uscita del loro nuovo quarto album, The Scythe, pubblicato dalla AFM Records lo scorso weekend. Gli Elven King sono autori di un ottimo power metal a tratti epico con innesti folk e stanno riscuotendo un buon successo in Europa. Questo nuovo album è stato registrato in Italia, tranne le parti di batteria registrate in Germania. Il coproduttore è Nino Lauren, chitarrista dei Thunderstorm, che si è occupato anche del mixaggio avvenuto presso i Sonic Pump Studios. La masterizzazione è stata invece curata dal famoso esperto Mika Jussila presso i Finvox Studio. 11 sono le tracce, presenti come special guest il chitarrista dei King Diamond, cioè Mike Wedd, che ha suonato due assoli in due tracce. Si tratta di un album a tema, infatti tutti i brani sono riconducibili alla morte. In tema di line-up, rispetto al precedente lavoro, c'è da segnalare la sostituzione del chitarrista. E quindi ne abbiamo parlato, li andiamo ad ascoltare con il brano che è stato scelto come singolo. Hanno registrato un video diretto da Mirko Andreis, si intitola The Divided Heart, dal nuovo album dei The Elven King. Sad. Il pezzo si intitola The Divided Heart, abbiamo detto singolo nonché video di questo album nuovo per la formazione italiana degli Elvan King. E chiudo con uno dei tanti amici di Claudia. Loro si chiamano il gruppo che è praticamente creato dal famoso chitarrista Dino Cazares, appunto ex Fear Factory, amico della nostra Claudia. Divine Heresy, questo è il nome del nuovo gruppo del chitarrista Dino. L'album è stato pubblicato su etichetta Roadrunner Records, uscito da pochissimo. Il gruppo è nato nel 2006, vede in line-up il batterista Tim Young, ex Vita Remains. Per quanto riguarda il ruolo di cantante, si è affidato a Tommy Vext, mentre le parti di basso sono state suonate dallo stesso Cazares. Recentemente è stato ufficializzato l'ingresso anche di un bassista, si tratta di Joy Payne, ex componente dei Nile. Il lavoro è stato prodotto anche lui da Mother Logan, ex Machine Head ed ex Soulfly. Il pezzo che vado a proporvi è anche il singolo, registrato anche il video, si intitola Failed Creation. L'album si intitola Bleed the Filth, abbiamo detto che è uscito su etichetta Roadrunner Records, lo trovate quindi anche in Italia. Ringrazio tutti gli amici che hanno seguito sino a questo punto il nostro spazio appuntamento di Hard and Heavy. Ci ritroveremo logicamente domani sera dalle 20 alle 21. Grazie a Simone, autore dei testi. Grazie al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi, al numero 1 qua a Milano. Ciao ciao! L-P-A-S-O-N.